dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda! E benvenuti sempre dagli studi di Radio Panorama, come ogni mercoledì dalle 18 alle 20. Io e addirittura il pubblico, grande regista, oggi mi hai fatto iniziare con la presentazione in bianco e mi è piaciuta. Ti ho preso così oggi. Mi hai preso alla sprovvista. E dalle 18 alle 20 vi terremo compagnia nell'ora dell'aperitivo, ovunque voi siate. Anzi, vi diamo i contatti subito per rimanere in contatto con noi: facebook.com/londainonda senza l'apostrofo, quindi con la L, twitter.com/ondainonda senza la L perché costava troppo, e poi scusate, radiopanorama.info o.eu per vederci in streaming, anche se attualmente in questo momento preciso lo streaming ha qualche problema, ma non preoccupatevi, ci sentite comunque, non ci vedrete ancora, ma fra qualche momento potrete anche vederci. E poi SMS al 380 76 90 204, oppure chiamate in diretta allo 091 888 5182, numeri che ripeteremo più avanti anche nel corso della puntata, quindi rimanete con noi se non l'avete ascoltati. Ma vi ricordiamo che ovviamente continuerà la nostra rassegna indie rock per questa settimana, e chiaramente ci sarà anche la rassegna dei film brutti con Marco verso la fine di questa puntata, il TG Lercio con le notizie più assurde del mondo, anche se ne leggeremo delle di assurde ma vere noi nel corso della puntata, e la nostra classifica delle 10 cose che, quindi ci sono tante cose in pentola, rimanete con noi. A cavallo di quest'onda sballottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda sballottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, pombo, clap, piodo, piattia, mosche, va, yamai! 1, 2, 3, 4! Noi siamo i giovani, giovani più giovani. Ed eccoci, per chi si fosse perso l'anteprima, siete su Radio Panorama con L'Onda in Onda. Io sono Andrea, dietro la l'altra parte del vetro c'è Bummo, che però non saluta oggi è un po' indaffarato. Ciao Bummo. Accanto a me invece è un ospite, si presenta da solo, ciao. Ciao, sono Giorgio Spiga per gli amici Giorgi. Giorgino abbiamo accanto a noi, se siete vicini più al microfono ti sentiranno meglio. Vuoi risalutare? Ciao a tutti, sono Giorgio Spiga per gli amici Giorgino. Giorgino, va bene, va bene. Allora, oggi come abbiamo detto abbiamo tanta roba in pettola. Come avete sentito e visto, no, perché è ancora la webcam ha qualche problema. Anzi, ridiamo il contatto: radiopanorama.info.eu per vederci, ascoltarci in streaming, in diretta. Come avete sentito, non c'è accanto a me Antonio, oggi non ci sarà. Intanto dobbiamo annunciare invece per i nostri più assidui ascoltatori, mi dispiace che vi strapperete i capelli dopo questo annuncio, ma non possiamo fare altrimenti. Noi chiuderemo questa puntata, questa maratona dell'Onda in Onda che continua incessantemente da giugno dell'anno scorso. Chiuderemo la prossima puntata, cioè la prossima puntata sarà l'ultima puntata per quest'anno. Poi ci rivedremo, ci risentiremo direttamente a settembre. Lo so, ci mancherete anche voi, è vero? Il nostro regista non è... è pronto con l'O. Va bene, allora io direi, caro regista, di partire subito con una di quelle notizie che fanno riflettere molto. Perché come sai... Importanti. Importantissime, cioè... Ieri ci sono state le amministrative, no? Sì. Ci sono state le amministrative e quindi, diciamo, non si parla d'altro. No, non si parla d'altro. Anzi, si parla della sconfitta del 5 Stelle. Si parla chiaramente della sconfitta del 5 Stelle, ma cosa è successo? È successo che in un comune di quelle dove ci sono state le amministrative è successo qualcosa di un po' strano. Candidato sindaco va al ballottaggio, ma è morto da 15 giorni. È successo a Sulmona, è vero, ragazzi, non vi sto inventando una stronzata. Ballottaggio tra il primo e il terzo arrivato a Sulmona, uno dei paesi più popolosi della provincia dell'Aquila. Al secondo posto, infatti, gli elettori hanno premiato l'ingegner Fulvio Di Benedetto, candidato sindaco di un gruppo di liste civiche. C'è un dettaglio, però: Di Benedetto è morto il 15 maggio, ovvero una decina di giorni prima del voto, stroncato da un infarto. Morto a liste presentate e schede stampate fuori tempo massimo, secondo la legge, per fermare le consultazioni o per ridisegnare le liste, la legge... I punti non ci sono, sono un'opzione. Sono senza occhiali. Le consultazioni per ridisegnare le liste. La legge vigente, infatti, non contempla il rinvio delle elezioni. Così il 21% degli abitanti di Sulmona ha comunque scelto l'ingegner Di Benedetto, con la soddisfazione dell'alleanza Sulmona Unita, che sull'ingegnere sindaco aveva puntato e che invano ha cercato un rinvio delle elezioni. Su Facebook fioccano i gruppi dedicati al risultato, mentre gli altri candidati ora corrono per accaparrarsi quel 21,8% di voti andati a Di Benedetto. Io però vorrei, in realtà, diciamo, esprimere il mio cordoglio verso il candidato che è stato battuto da Di Benedetto, perché se ti fai battere da un morto, sono battuto da uno zombie, sì, diciamo, non sei proprio il massimo. Quindi, insomma, chi sarà il prossimo sindaco di Sulmona lo scopriremo. Magari sarà un morto. Magari sarà un morto, sì. Però, insomma, Sulmona sceglie uno zombie e un vivo. Vediamo chi sarà in realtà il candidato. Ovviamente, tante condoglianze alla famiglia di Benedetto, che magari chiaramente ci è rimasta anche un po' sorpresa da questa vicenda. Caro regista, lanciamo il primo pezzo di questa giornata di oggi e ci rivediamo subito dopo. Verdi che studiano i riti dei Celti e dei Longobardi, non parlano la lingua italiana, non sanno chi fosse il poeta Leopardi, ma odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, inventano qualche balla, attirano la folla, col rito dell'ampolla e l'offerta di Opò. Ricordo gli esordi degli uomini verdi, erano contro i terroni pugliesi, anche i sardi, finocchi, gli zingari, i negri, i bastardi, il tricolore Garibaldi. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che fa parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore, ma se la scienza medica si mostra pessimista, ci vuole l'esorcista. Senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, Napoli merda, Napoli colera, tu sei la vergogna dell'Italia intera, ma vorrei che fosse chiaro che tra i napoletani ce ne sono tantissimi, per bene anche di più, non siamo noi, noi siamo quelli che pure a Napoli ci chiamano Zulu. Odiano il kebab, Maometto i senza tetto, anche la pizza, chiacchiere da bar, si mischia la polenta con la razza, cantando il fa pensiero, ci credono davvero, fedeli a un condottiero, un druido fatto un po' così, non parla neanche bene, si esprime solo a gesti, se lo incontri per la strada proprio non diresti che lui crede di far parte della razza superiore, si può fermare solo con l'aiuto del dottore, ha un posto fisso in villa, si sente lusingato, ma poi la vera festa inizia quando se n'è andato, lui crede di far parte della razza superiore. Ed erano i Self con Out With A Bang. Questa canzone, caro Bummo, mi ricorda quando abbiamo fatto la puntata sulla fine del mondo. Ti ricordi che doveva finire il mondo, poi è stata tutta una truffa, non è finito. Che truffa, ci hanno preso tutti per il culo. Ci hanno preso tutti quanti per il culo. Però vabbè, insomma, è stato bello comunque rimanere tutti quanti vivi. Annunciamo la classifica di oggi. Oggi vorrei leggervene due. Una per i più anzianotti, possiamo dire anzianotti, cioè, o non è politically correct. Tu, tipo tu. Io, sì, vabbè, abbiamo parlato di zombie per un morto. Diciamo, siamo anche oltre le politiche ricorre, quindi i vecchiazzi, gli anzianotti. Le 10 cose che deve fare un calvo quando perde i capelli è diventato ormai inevitabile. E questo, possiamo anticipare il titolo di questa classifica. Ma la seconda classifica invece è più politica, sono le 10 cose dalle quali escludere Matteo Renzi. Che secondo me, dopo che ha fatto la foto vestito da Fonzi, per chi, il giornale però chi, era figo. Era figo effettivamente, però dico ormai è un po' da escludere, anche se lui sta cavalcando l'onda di questo successo. Vedremo cosa farà. Ma non c'è una notizia di quelle serie, insomma. C'è una notizia di quella nera, insomma. più nera di quella lì. Più nera di quella lì, in che senso? Più nera di quella dell'uomo morto, dico magari. No. Però sì, ci sono notizie molto più serie. Ne avevo letta una già nella puntata di Troppo Forti del lunedì, ma ovviamente non posso esibermi da leggerla anche in questa puntata, perché è una notizia bellissima. Ossessionato da fantasmi, mette telecamere in casa e scopre la compagna a letto col figlio. È successo in Australia. Ecco cos'erano quei rumori, allora. Sì, esatto. Un ragazzo australiano ossessionato dai fantasmi e dal paranormale ha deciso di tappezzare la casa di telecamere. Prima o poi li prendo questi fantasmi, deve aver pensato. Eh sì, l'ha preso. Li ha presi proprio. Dopo qualche giorno di registrazione, l'ignaro australiano ha iniziato a vedere i primi DVD. Nessun fantasma. In compenso però ha scoperto che la ragazza di 28 anni era molto in confidenza con suo figlio di 16 anni. Così in confidenza che una volta entrata nella camera del figlio di lui gli parlava negli orifizi. Esatto, anche per discutere di scuola guida. Ma è così in confidenza che dopo aver parlato i due si sono baciati e hanno fatto sesso. Ma è più telecamera ad aver pensato subito dopo aver visto la scena. Però comunque in tutta questa vicenda la ragazza è finita in tribunale è stata per essere stata accusata di sesso con minori. Lei però provava a difendersi sostenendo di non sapere l'età del ragazzo. Anche se diciamo, non sapere l'età del figlio del tuo convivente è pure un po' difficile. Cioè, ma c'erano i fantasmi però in casa, erano distratti da altre cose. Sì, erano fantasmi con le corna comunque. Sì, sì, tutti. Fantasmi di Alce potrebbero anche essere. Comunque ma hai visto che è nato l'esercito di Berlusconi? Sì, l'ho visto, io sono anche tentato di iscrivermi. Ma dopo l'esercito però, della giuramento salvezza, che devi fare. C'è l'esercito della libertà. Non l'ho letto il giuramento, però potremmo leggerlo più avanti. È bello il giuramento, guarda, c'è fatto seriamente. È fatto in maniera seria. No, ho sentito la notizia, ho letto di questo esercito della libertà, c'è ma il modulo non ho da compilare, da mandare via email. Ma io infatti voglio iscrivermi, a prescindere dal giuramento, voglio iscrivermi perché è bello, voglio essere un soldato della libertà di Silvio. Cioè, come un cavaliere dello zodiaco. Sì, ma io no, ma in realtà voglio che lui mi metta la spada, passi la spada tra una spalla e l'altra, la scapola e l'altra. e mi nomini cavaliere, cioè mi dica alzati in piedi da adesso, in questo momento sei nominato cavaliere della libertà, cioè non lo so, o soldato della libertà. Comunque ne scopriremo sicuramente più avanti, ci ascoltiamo il prossimo pezzo e ritorniamo. C'è la pubblicità? Non lo sappiamo? No, ancora no. Ancora no, e quindi ritorniamo subito dopo. E dobbiamo lanciare le prime posizioni delle 10 cose che deve fare un calvo quando perdere i capelli è diventato ormai inevitabile. Quindi cari calvi affetti da calvizia precoce o calvizia... Calvizia perenne o calvizia per M, insomma. Calvizia per C, ignorante. Calvizia per C, giusto. Meno male che il direttore è intervenuto all'istante. Io non riflettevo su questo. Ascoltate questa classifica, perché alla posizione numero 10 abbiamo intanto la prima, che è leggere questo libro, ovvero Sotto il cappello niente. Perché ognuno... Cos'è questo applauso? Niente, sotto il cappello niente. Sotto il cappello niente, parte l'applauso. Certo. Perché ognuno ha la propria Bibbia. La Bibbia dei Calvi l'ha redatta Kevin Baldwin, che in Sotto il cappello niente espone 40 ragioni per cui essere calvi è cool. Si va dalla superstizione alla semplificazione fino all'accettazione, quindi leggetelo. Abbiamo fatto anche la marchetta al libro di Kevin Baldwin, Sotto il cappello niente. Invece alla posizione numero 9... è il fare questo, cioè in realtà è quello che fa Homer Simpson, che fa ballare un pupino dentro il suo cervello. Assolutamente. Come no? Cos'è? È lucidarsi la pelata con l'olio delle palle da bowling. E io lo confondevo con la scimmietta. Hai ragione. Ah, tra l'altro, hai visto che oggi hanno mandato i Simpson in inglese? Sì, avevano sbagliato, poi a metà hanno cambiato. Poi hanno detto, ma forse sono in Italia. Leggevo tutti quanti e scrivono, perché i Simpson sono in inglese? Ma perché i Simpson? Ma ho le allucinazioni io. Ma va bene, invece la posizione numero 8, e poi ci risentiamo subito dopo la pubblicità. Rinunciate al riporto, anche perché fa schifo, diciamo. Le classifiche di stile e i discorsi delle donne sono impietose. Il polso della gente non va seguito con atteggiamento da comare, ma se qualcosa viene ritenuto universalmente tremendo, un fondo di minimo di verità deve pur possederlo. E quindi, insomma, diciamo che il riporto è da escludere. Queste sono le prime tre posizioni delle 10 cose che deve fare un calvo quando perdere i capelli è diventato ormai inevitabile. Per seguire le altre posizioni, rimanete con noi anche dopo la pubblicità. Ad ogni ora, grandi successi di ieri e di oggi. La tua musica, la tua radio. Radio Panorama. Ciao Romania, sexy, sexy, sexy. Ciao giovani amanti della commedia sexy all'italiana. Questa è dedicata a voi da Piotta alias il Giaguaro. Con la mossa del Giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del Giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del Giaguaro tu ti sciogli piano piano. Giaguaro come zampetti perfetti, movimenti sul fianco, in alto, in basso, il tocco dal collasso, come miele appiccica nel sesso, mizzica, se pizzica, se mozzica, allora sì che è fantastica, niente plastico, labbra al silicone, ma tette sode, febbre dell'amore, come buscaglione, il dritto di Chicago, suscito passione con la mossa del giaguaro, e bravo, mamo, come te paro, para del culo da river giaguaro, me te sciogli in mano, te sciogli piano piano, a cottura lenta, il piatto è prelibato, il giaguaro con sta mossa è troppo forte, chi bastona primo bastona due volte. Con la mossa del giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo ritmo amaro. Con la mano sono giaguaro, son Lazzi, io non lavoro manco se m'ammazzi, viva la Bernarda, chi tocca e chi guarda, scalda quel gran pezzo dell'Ubalda, bamba, disco samba, un po' di rumba, arrivar giaguaro, un urlo nella giungla, muovi la mano, giovannona, coscia lunga, piedi più fianchi e palla questa rumba, come Ramba, stile pornografico, macio Piotta, mucio decamerotico, entro, esco, non vengo presto, meglio un ritardo che il tuo pretesto, stress, lavoro, impegni, sii più onesto, prima o poi te lo buttano in del posto, pacco, doppio pacco, contro pacotto, occhio malocchio, prezzemme nel finocchio. Con la mossa del giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo ritmo amaro. Pischelle belle, io giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle, a pelle. Giaguaro e nei paraggi assaggio, non assaggi, miei massaggi, mando messaggi coi cellulari, anche a tette grosse come Lolo Ferrari, io turi e compari, flamine e corveleno, roba coatta, corre come un treno, come Montagnani, dimmi dove vai, se il vizi e tu non ce l'hai, tu come Corrado, l'amico del giaguaro, dedicato con affetto a Gio D'Amato, Anfami, dedicata a tutti i giaguari, mo siamo tornati e non se ne andavo più via. Prendi il ritmo in mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendi il ritmo in mano, col giaguaro, col giaguaro. Prendilo per mano, col giaguaro, col giaguaro. Con la mossa del giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo ritmo in mano. Con la mossa del giaguaro tu ti sciogli piano piano. Con la mossa del... Ed era Piotta. Il giaguaro ricorda anche sempre Bersani, sì, vero? Sì, sì, sì, sì. Che ieri si è ripreso un pochettino lì a Ballarò. e a, né addette di tutti i colori contro il 5 Stelle. No, vabbè, dai, è rimasto cauto, però la sua smacchiatura del giaguaro non gli è riuscita. E Piotta ricorda anche la nostra sigla, noi lo ringraziamo tantissimo per aver contribuito a far della sua voce la sigla dell'Onda in Onda. Sì, abbiamo avuto questo onore. Io vorrei invece farvi ascoltare quello che non ho potuto farvi ascoltare la settimana scorsa, perché non sono riuscito a dare il file ad Antonio, che in realtà ha registrato lui col suo cellulare, quando siamo andati alla manifestazione di Addio Pizzo a Palermo, che si è svolta a Palermo 2 settimane fa. Quindi ve lo facciamo sentire con un po' di ritardo, scusandoci appunto per il ritardo, perché siamo riusciti a beccare Piff sotto il palco che stava intrattenendo il pubblico nella manifestazione di Addio Pizzo, e siamo riusciti a fargli 2 domande velocissime. Ci scusiamo con il pubblico che ascolterà questo audio, ma chiaramente essendo sotto il palco registrato con un mezzo di fortuna, l'audio è un po' sporco, però si riesce a sentire chiaramente quello che dice Piff. Magari abbassate un po' la radio perché ci sarà il sottofondo del palco, quindi sarà molto molto disturbato, ma le parole sono chiare. Vi facciamo ascoltare l'intervista di Piff, dura pochissimo, e poi ritorniamo in diretta. Allora, siamo con Piff, che al tanto abbiamo sentito quando stavate ancora facendo le riprese del film. Intanto quando esce adesso il film? Allora, diciamo che il campo si è ristretto in autunno. Credo che verso luglio saprò esattamente la data. Si saprà dopo. Com'è stata questa serata qui a Palermo per Addio Pizzo? Il giardino inglese si presta molto, è molto bello anche per... Cioè, è bello il motivo per cui siamo qua, ecco. Sì, però comunque questa sera aiuta a sperare, vedendo le facce dei giovani contenti. Ma guarda, io lo dico sempre, ogni volta che parlo di Addio Pizzo, sembra che l'abbia inventato io, l'abbia creato io. Però credo che quando ti senti un po' giù e dici che non c'è speranza, pensi a Addio Pizzo, è un po' cambia idea. Ed è molto più bello. Va bene, Piff, ti ringraziamo, allora ci risentiamo poi quando esce il film. Grazie, grazie a te, ciao. Antonio si è dato da fare per raggiungerlo sotto il palco e strappargli questi 2 minuti di intervista, perché poi è scappato praticamente. Quindi diciamo che abbiamo avuto in esclusiva un'intervista velocissima con Piff, ripromettendoci di riascoltarlo quando uscirà il suo film. Avevamo già intervistato tempo fa per il film La mafia uccide solo d'estate, e ricordando tra l'altro che Alfano ha scritto un libro che si chiama La mafia uccide solo d'estate, quindi è un po' anche un plagio. Vedremo come ne usciranno da questo doppio titolo, che non affianca chiaramente molto l'etica di Piff alla politica di Alfano. Quindi ne vedremo delle belle, e aspettiamo con ansia questo bellissimo film. Leggiamo una notizia invece: tormenta le compagne poco trendy, la mamma la costringe a vestirsi male per punizione. Dove può essere successa questa notizia? Chiaramente negli Stati Uniti, ovviamente. Solo loro possono il bullismo è il tuo hobby, e allora vestiti da vecchia zia, è la punizione inflitta da una madre dello Utah alla figlia adolescente e fashion victim. Io non ce la faccio queste cose, anzi che non ci sono nomi giapponesi, caro. Ma arriveranno. Sicuramente più avanti nella puntata arriveranno. Che secondo quanto gli era stato riferito dagli insegnanti, con una serie di email tormentava, derideva e discriminava le compagne meno facoltose vestite con abiti poco trendy, sia dal vivo che su Facebook. Ricordiamo che è appunto una fashion victim. Mannaggia, non ce la faccio. Quando Allie, la matrigna di Kaylee, la fashion victim, ha scoperto il discutibile divertimento della figliastra, questa Allie ha cercato di farla ragionare, ma la ragazza non mostrava alcun rimorso per il suo comportamento, nemmeno quando la donna le ha fatto presente il rischio che una delle sue vittime avrebbe potuto pensare al suicidio. Fashion victim, ce l'ho fatta stavolta. Allie, che sempre non cambia nome e rimane con la stessa tonalità, si è quindi recata in un grande magazzino economico e ha comprato $50 di abiti da vecchia zitella. Ma poi come sono gli abiti da vecchia zitella? Ma... Oh sì, no, ci sono le immagini. Ci sono le immagini, è vero. Leziosi, sintetici e dalle stampe old fashion, non old fashion victim. No. E ha condannato la ragazzina a indossarli per 2 giorni di seguito, esponendola al pubblico ludibrio. Ma... dei compagni di scuola. Io quando ci sono questi termini aulici torno bambino. il modo migliore per mettersi nei panni degli altri, ha dichiarato l'astuta Matrigna, visto che nelle scuole USA i ragazzi danno una tale importanza all'immagine, alla popolarità e alla loro reputazione fra compagni, che Kaylee non avrebbe potuto subire. Certo, ho letto l'altra notizia che era al riguardo della punizione notorietà. Peggiore, sì, esatto, l'abbiamo letta, l'ho vista anch'io, la leggiamo dopo. Però a questo vorrei aprire una parentesi, che quando sono andato in Inghilterra più volte ho visto che sei vestito a vecchia zitella. Mi sono vestito a vecchia zitella camminando ed ero anch'io una fashion zitella, victim. E quando mi sono girato per strade, la prima persona che ho visto l'ho chiamata Ally. No, però quando camminavo con Ally, viaggiando vedendo gli istituti britannici, ho visto che tutti quanti sono vestiti in uniforme. Sì, almeno quelli che ho visto io, poi non lo so se è così, dovrei informarmi. Cioè, più in America, in Inghilterra, non in tutti i college, però in molti sì, si vestono tutti con l'uniforme. Tutti uguali, è stato un po' strano, sono sentito un po' dentro. Tra quelli femminili Harry sono... Potter. Ti fanno ingrifare quelli femminili. No, fanno ingrifare tutti. Fanno ingrifare tutti? Sì. Ho capito. Vabbè, non è una cosa personale, insomma. Ah, ho capito. Quindi dici che è uno stato generale. Simbolo. Sì, esatto. Capisco. Va bene, senti, ci ascoltiamo il prossimo pezzo e poi continuiamo la classifica. Sai, non mi piace chi ha da bene non hai Fortify. Non mi piace chi non conosce lo che sai. E si improvvisa DJ solamente per gli skate. Non mi piace chi fa musica senza umiltà. Come brace, prima o dopo brucerà. A me piace chi suona per la gente. Solo buona vibra diffonde, ma davanti niente si arrende. Yo! Nasci in drill, l'amo brilla nel paese. Orecchie tese, chiamami DJ, che non rapper, no scuse. Tra le casse scosse, foto mosse, bionde nere, rosse, DVD, San voi come carcasse. Esco da casa preso bene per questa night. Entro nel club e il DJ in fiamma, tutta la yard. Accanto a me la ghial, balla con un kid Islam. What a bam bam, oh. Questo è il sound che spacca. La gente non sta mai ferma. Per l'energia del DJ, mentre io ballo con lei, insieme Cat to all the dancehall lovers. Ready? Impazzisco, mi elettrizzo, ora c'è il mio sound che spacca bomba. Quando vado nel club, ascolto i sui dub e poi vado in botta. Suona Bugio Minimale, elefante per danzi, in fiamma la yard, parte la selezione. Se in ebollizione ci provi a sfidarlo, ma lui ti sfonda, ma... Esco da casa preso bene per questa dance. Entro nel club e il DJ in fiamma, tutta la yard. Accanto a me la ghial, balla con un kid Islam. Guata bam bam, oh. Questo è il sound che spacca. La gente non sta mai ferma. Per l'energia del DJ, mentre io ballo con lei, insieme sulle mani. Questo è il sound che spacca. Tutta la massa si chiama. Per l'energia del DJ, mentre io ballo con lei, insieme sulle mani. Veniamo dalle posse, vinciamo a mani basse. Pugno in asse, calabrese, sale la febbre. Fosse Berlusconi quando beve toghe rosse, immuni ad offese. Cancelliamo le difese, un virus nel paese. Vibrazioni in quantità, questo è palese. In italiano, inglese, questo è il sound che spacca tutto. Non può avanzare più pretese. Esco da casa preso bene per questa dance. Entro nel club e il DJ in fiamma, tutta la yard. Accanto a me la ghial, balla con un kid Islam. What a bam bam, oh. Questo è il sound che spacca. La gente non sta mai ferma. Insieme sulle mani, questo è il sound che spacca. Tutta la massa si chiama. Per l'energia del DJ, mentre io ballo con lei. Insieme sulle mani, oh. E rientriamo in diretta. Allora, avevamo promesso che avremmo continuato la classifica delle 10 cose che deve fare un calvo quando perde i capelli. È diventato ormai inevitabile. Ma prima ridiamo i contatti per chi volesse ascoltarci e vederci oppure scriverci. Quindi facebook.com/londainonda senza apostrofo con la L. twitter.com/ondainonda invece senza la L per il nostro profilo Twitter. E poi cos'era? Ma radiopanorama.info.eu invece per chi vuole ascoltarci e vederci. Adesso lo streaming video funziona, all'inizio abbiamo avuto qualche problema ma adesso potete vedere le nostre bellissime facce. E poi sms al 380 7690204, oppure chiamate in diretta allo 091 888 5182. Ma in realtà non chiamate, non fatelo, perché avremo fra poco un'intervista con noi palcoscenico, quindi rimanete con noi. La classifica invece delle 10 cose che deve fare un calvo quando perde i capelli è diventato ormai inevitabile, riprende dalla posizione numero 10 per un rapido riepilogo, e abbiamo Leggere il libro sotto il capello niente. Alla posizione numero 9 invece è lucidarsi la testa come faceva Homer Simpson, quindi fare questo dice la classifica, rimandandovi a vedere il video che trovate sul sito le10.net. E poi posizione numero 8, rinunciare al riporto. Ma invece alla posizione il rumore del riporto. Ah sì, alla posizione numero 7 che si riaggancia appunto a... cos'è? Perché quella faccia? No, guardiamo un'altra cosa. Rinunciate al riporto, dimenticatevi il codino. È lo stesso discorso infatti fatto per il riporto. Quanto poco funziona la difesa ad oltranza praticata dagli ex capelloni che, pur di non accettare l'inevitabile, esibiscono il codino. Togliere è meglio che fingere, basta una forbice. E invece la posizione numero 6, fate brutto prima e fate i saggi dopo. Ma che cos'è? Il nome tutelare di un calvo giovane è automaticamente Vin Diesel. Ma perché scrivono così? Così le dice. Fate brutto con indifferenza, paura, timore reverenziale, ammirazione o stima è indifferente. Da vecchi l'atteggiamento si ribalta. Calvo sarà uguale a saggio, saggi di vita o di lettere, di chi ha vissuto e può insegnare. Ogni capello che manca alimenta il mito e che potreste sapervi creare attorno. Filosofi, inforcate gli occhialetti e dispensate pillole di sapienza. Siete pelati, che cazzo. Posizione invece numero 5. C'è un'immagine di un anziano signore con la pelata e un po' di capelli rimasti che si è fatto tatuare un omino col tagliaerba che sembra che stia sfoltendo la pelata. Questo è un genio, vero? Sì, è un... Da applausi, un io lo calvo, vedo in mezzo alla strada. Solo io... un calvo può farlo, la posizione numero 5. Sarà bella poi fare il riepilogo di questa classifica descrivendo sì, le immagini. Sì, sarà micidiale, veramente. Io direi di conservare la posizione numero 4 per dopo e insieme al podio, anche perché... è abbastanza, l'immagine è abbastanza evocativa, un uomo che prende fuoco, quindi prende fuoco ai capelli, quindi lo riserviamo dopo. Io direi di annunciare invece il prossimo pezzo e prepararci per l'intervista con il palcoscenico, quindi rimanete con noi. Ieri andando a fare due passi in un percorso di fede, mi chiedevo posso smaltire dei peccati con i giochi, ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato, continuamente pisello, toccato. Fin dall'età di 6 anni ero già condannato. Troppo vado all'inferno, fuoco eterno, gli onanisti, i comunisti e Gengis Khan. Chi l'avrebbe detto che sarei finito dannato? Ma come ti muovi, ti imbatti in un peccato? Credi in un gruppetto di dei e poi li nomini in vano. Santificare, non onori papi, non onori mammi, accidentalmente assassini la gente, dopo una cena elegante all'improvviso fornichi, tu, insieme all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno.

d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway, New York, New York. È una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Buonasera dalla redazione del TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Andiamo subito ai titoli del TG della settimana. Cronaca: embrione impazzisce e uccide sua madre. Processo di Norimberga, tutto da rifare. L'uomo ragno si confessa in TV. Le ragnatele le sparo dal culo. L'associazione dei telespettatori cattolici contro Disney Channel. Paperino non porta le mutande. Chiesta la sospensione di tutti i programmi ambientati a Paperopoli, o come la chiamano loro, la nuova Sodoma. Rana elettrificata rinviene e folgra 8 studenti di medicina. Scandalo sulla 7, alla trasmissione Pubblico. Giulia Innocenzi fa un'analisi politica senza citare il gruppo Bilderberg. Corte di Cassazione. La marijuana si può coltivare, ma solo nel prato del vicino. Arriva anche in Italia il Lilliputol, la pillola per ridurre le dimensioni del pene. Matematico rivela: Pitagora non si è mai accorto che i quadrati costruiti sui cateti di un triangolo rettangolo scivolano. Annuncio di lavoro. Azienda cerca con urgenza 25 perditempo. Si dimette la Madonna di Medjugorje. Vorrei dedicarmi a qualcosa di New Age, ha detto ai giornalisti. Panico tra i commercianti di Medjugorje che pensano già di sostituirla con quella di Recanati. Hackerato il PC di Saviano. Spunta una frase allegra. I jazzisti non improvvisano. Scrivono lo spartito sulla mano. UFO. Apparsi misteriosi cerchi nei capelli di Casaleggio. A dare la notizia il blog di Beppe Grillo, con un post intitolato «Gli alieni sono grillini e chi non ci crede se ne va a fanculo». Parla il sessuologo. Il bacio accende la passione, ma il gianduiotto la incendia. Scoperte scientifiche. Abbiamo sempre chiamato verde il rosso e viceversa. Attenzione, gira un video su di te. E questa era l'ultima notizia del TG Lercio a cura dell'Onda in Onda. Vi salutiamo alla prossima puntata. Ciao. Bellissimo il TG degli amici di Lercio.it, io vi consiglio di andare a vedere il loro sito, ma invece per chi è interessato alla nostra rassegna Indie Rock e Pop abbiamo direttamente al telefono con noi Palcoscenico. Ciao Raffaele! Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori e a voi. Ciao, ciao Raffaele, come stai e dove ti trovi in questo momento? Allora, in questo momento sono nella provincia di Napoli, mi sono spostato verso la provincia di Napoli, qui tutto bene, c'è il sole e siamo tutti bene. Bellissimo, come qui a Palermo, belle giornate per ora. Allora, Raffaele, parlaci di questo album Rockmatic. Sì, Rockmatic è il quarto lavoro di Palcoscenico, quindi una band attiva dalla fine degli anni 90. E possiamo dire che questo disco è un po' un riassunto della nostra storia, del nostro percorso, nel senso che abbiamo cercato di fondere un po' i gusti nostri musicali e sicuramente abbiamo cercato di mettere insieme un po' le esperienze che in questi anni hanno caratterizzato il progetto. Poi in effetti è un disco che per noi è importante perché abbiamo voluto fortemente alcune collaborazioni e soprattutto la produzione di un produttore artistico italiano che è il produttore degli Africa Unite, Dub Sing, e quindi di conseguenza abbiamo cercato di creare un po' quello che a noi piaceva di più, creare questa cosa al nostro piacimento. In effetti Rockmatic racconta un po' la storia d'amore tra il digitale e l'analogico, tra l'uomo e la macchina, tra il vintage e il moderno. Io poi che scrivo i testi ho cercato di mettere insieme, ho cercato di sintetizzare un po' quello che mi circonda, quello che vedo intorno a me, e quindi i testi parlano di storia di vite vissute, storie individuali ma anche collettive. Ho capito, io leggo da quello che scrivi, che mi è apparso nella tua biografia, nella vostra biografia, scusami, che voi state fondendo le sonorità rock con quelle del dub e reggae. Quando tu già hai parlato degli Africa Unite, il mio regista dall'altra parte del vetro ha sgranato gli occhi, come a dire, cavolo, non me l'aspettavo. Stica ha detto, ha scritto, anzi mi ha scritto al computer, questa idea di fare questo crossover tra rock e reggae, da dove è nata? In effetti diciamo che la band nasce come un progetto rock, sostanzialmente la nostra matrice rock, poi con l'entrata nel gruppo del Dub Master, che è sempre stato un appassionato di ritmi in levare, del reggae, del dub, e successivamente poi dell'inserimento dell'elettronica, abbiamo avuto questo percorso quasi, questo sviluppo quasi logico. Poi conoscendo Madaschi in alcuni concerti che abbiamo suonato insieme, lui ha visto nella band un'energia, ha visto qualcosa di positivo e ci invitò a mandargli del materiale, e quindi in effetti nasce questa collaborazione, perché lui è appassionato del reggae, del dub, storicamente fondatore e produttore degli Africa Unite, ma lui in effetti è un appassionato dei suoni distorti, dei suoni digitali. Cioè, se si va a vedere un po' quello che è il suo progetto personale, lui è uno che ama veramente estremizzare, veramente sperimentare a 360 gradi. I suoni distorti, ti riferisci ai suoni rock distorti? I suoni distorti mi riferisco sia ai suoni rock ma anche ai suoni più moderni, come quelli industrial, quelli elettronici. Veramente c'è il fondere tutto, partendo dal rock per poi arrivare a fondere praticamente un po' questi stili diversi. In effetti, quando gli abbiamo mandato i provini ad ascoltare un po' le preproduzioni, lui si è gasato dicendo: perfetto, questo è un sound nuovo che potrebbe andare bene anche come forma di performance, come spettacolo da portare in giro, e infatti stiamo avendo degli ottimi riscontri. Beh, come Cavarezza, diciamo, ha fatto un crossover tra rock, sì, e rap. Voi fate tra l'altro siete stati anche una backing band del concerto di Cavarezza, leggo, se non sbaglio. Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Michele alias Michele Salvemini, sì, certo. Sì, in un festival qui a Napoli, e poi successivamente siamo stati anche un po' in Puglia, dove lui ha fatto dei concerti, quindi abbiamo avuto l'onore di suonare prima di lui. E sì, tra l'altro veramente ne vedo tantissime, le Lessere Tese, Africa Unite, Roy Pace, Retusca, sì, Linea 77, Maurizio Capone, molti di questi tra l'altro abbiamo intervistati anche pochi giorni fa, quindi diciamo stiamo chiudendo questo cerchio con voi. Vedo che collabora invece anche Marcello Coleman, correggimi se sbaglio, dell'Era Magretta. Certo, Marcello possiamo dire che, anche se non fa parte proprio in modo ufficiale della band, è un elemento e una parte fondamentale del nostro progetto, perché ormai ci conosciamo da anni, già ha fatto delle cose nei dischi precedenti, e quindi proprio stesso lui ha voluto fortemente esserci di nuovo in questo disco che stiamo promuovendo. E Marcello potrei definirlo come uno delle voci caraibiche più belle che abbiamo qui. Veramente lui ha una voce eccezionale, infatti in un nostro pezzo si è dato tantissimo. Il nostro regista, per chi ci vede in webcam, ha appena detto caraibiche, si è messo a ballare, mi sa che condivide la tua opinione. Senti, il leitmotiv invece del disco, ne vogliamo parlare, se c'è un pezzo anche a cui ti senti più legato, e poi ci parli del singolo Mi piace. In effetti alla fine ci siamo legati un po' a Mi piace per il semplice motivo che è un pezzo in cui io ho cercato di raccontare una tematica che oggi ci appartiene tanto, cioè questa condivisione della rete, no? Andare in rete, mettere mi piace, fare visualizzazioni, like, e quindi di conseguenza fare parte di una community, dire la tua, no? In un certo senso, anche se geograficamente si è lontani, però si ha la possibilità di restare in contatto con le altre persone. E questo devi pensare che è stato un brano che in effetti io ho finito di scrivere quasi a chiusura del disco e abbiamo mixato alla fine, ma quando lo abbiamo ascoltato dopo il mastering ci è sembrato proprio perfetto per questo periodo, sai che oggi si dà tanta importanza alle visualizzazioni, ai mi piaci, cioè cose che noi palcoscenico abbiamo sempre tralasciato in un certo senso, perché abbiamo sempre dato molta importanza a fare tanti live, mentre invece oggi si dà importanza a quante visualizzazioni ha questo video, bene, 500.000, allora perfetto, diventa magari un'occasione per poterne parlare, però poi in effetti si parla meno di musica e più di immagine, dici. Sì, ma poi in effetti i contenuti magari per vedere quella band dal vivo e ti fa cagare, cioè fanno passare. Guarda, io ne ho avuto un'esperienza la settimana scorsa con un rapper anche abbastanza apprezzato, che... e tra l'altro è stato uno scambio di opinioni sul mio Twitter con il suo. Poi ho scoperto in realtà che è abbastanza conosciuto, anzi apprezzato. A me francamente mi ha fatto veramente cagare. continuo ad essere così. Nella mia opinione forse ha suonato veramente male, ma proprio da cani in quella puntata, però vabbè, in quell'occasione è il momento del rap. Pensa che io anche ho lavorato a delle produzioni di rap e quindi sì, è il momento, ma per questo non è importante essere bravi, non è importante saper fare delle cose, l'importante è che piace, cioè se piace alla rete allora è un fenomeno che se ne parla. Però in sostanza poi bisogna andare a vedere i contenuti, perché per esempio i palcoscenico hanno impiegato quasi 12 anni per creare una line-up, come si dice. Leggo, dal 99 infatti. Beh. Una struttura, esatto, cioè noi abbiamo veramente impiegato del tempo per creare una sezione ritmica di altissimi livelli, basso, batteria, sai che funzionano da Dio. Perché? Perché ci siamo resi conto che effettivamente tanti anni stando sulla scena, sì, va bene promuovere, va bene la rete, va bene, cioè, però in effetti poi quando vai dal vivo e suoni bene, l'unico riscontro che può darti questa, diciamo, può dare questa risposta sono i live. Sono perfettamente d'accordo con te. Senti, Raffaele, in conclusione, progetti per il futuro dei palcoscenico, tour? Allora, noi siamo partiti sabato scorso, siamo in tour, praticamente saremo il 2 giugno al Meeting del Mare Marina di Camerota, insieme a tanta bella gente, ci saranno Motor Connection, Marta sui tubi, Ministri, quindi tanta roba. Parlando di rap, ci saranno anche i Club Dogo, quindi ci aspettiamo veramente un bellissimo spettacolo. E dovremmo arrivare anche poi giù in Sicilia, oggi il nostro booking ci diceva tra Ragusa, Palermo, Catania sicuramente faremo un giro. Quindi... allora vi aspettiamo, ci risentiremo così vi veniamo a vedere. E infatti quando mi hai detto che la radio era di Termini Imerese siamo caduti proprio a pennello, quindi perfetto, spero che queste date vengano confermate e magari appunto ci potremmo rincontrare. Chiaramente. Allora Raffaele, noi ti ringraziamo veramente tanto di questa intervista e ti auguriamo ti facciamo un grosso in bocca al lupo chiaramente per questo progetto, l'album Rockmatic. Ci ascoltiamo insieme a te il vostro singolo Mi Piace. Grazie Raffaele. Grazie a voi, alla prossima. Ciao. We'll be right back. certo io non sono la moda, ma credo solamente che la terra è rotonda, geometricamente perfetta, geometricamente. Come salire le scale velocemente, sentire forte il cuore che batte regolarmente. Come salire le scale velocemente, sentire forte il cuore che batte regolarmente. Non mi importa se quello che ascolto non è discograficamente perfetto, ma so soltanto che mi piace. Voglio sognare ad occhi aperti solo quello che mi va, sognare un nuovo mondo senza limiti di età, per capire cosa è giusto per sentirmi in libertà, pensare tutto quello che problemi non mi dà. Voglio suonare ad occhi chiusi senza ostacoli e tabù, non pensare a quel che è stato e adesso non c'è più, per avere nuovi stimoli cercando un po' di più, di vivere una vita senza limiti e tabù. Beh, ricordano un po', come dicevo, al mio regista, per chi ci vedeva parlottare in studio dalla webcam, anzi ricordiamo la radiopanorama.info.eu se volete ascoltarci e vederci. Dicevo appunto al mio regista che il suono ricorda un po' quello dei 99 Posse o meglio progetto Al Mukawa, ma fatto a Zulu Persico qualche anno fa, e quindi le sonorità erano quelle dubstep rock e riguardavano veramente molto quegli ambienti, quel progetto. Però complimenti ai Palcoscenico e a Raffaele che ci ha concesso un'intervista molto molto snella e veloce. Già. Ne abbiamo trovati di peggio, vero? Sì. Molto di peggio. Allora, continuiamo la nostra classifica delle 10 cose che deve fare un calvo quando perdere i capelli è diventato ormai inevitabile. Facciamo un riepilogo dalla posizione numero 10, leggere il libro sotto il capello niente. Il cappello niente, scusate, ma anche sotto il capello potrebbe andare bene. C'è proprio niente, basta. Niente, infatti, quindi di Kevin Baldwin. Poi la posizione numero 9 abbiamo Homer Simpson che cosa fa? Si lucida la pelata. Dalla testa, ok, perché c'è il video nella nostra nella classifica delle 10.net. Alla posizione numero 8 rinunciare al riporto e conseguente, questo è il suono del riporto. Alla posizione numero 7 dimenticarsi il codino con la pelata. Alla posizione numero 6 fate brutto prima e fate i saggi dopo. Andate a leggere, è indecifrabile come è scritta. Posizione numero 5, tatuarsi un omino che con tagliaerba vi rapa la pelata con un po' di capelli sono rimasti. Alla posizione numero 4, non presentate Joseph Smietana alla vostra fidanzata moglie. Ora, per questa posizione dobbiamo... annunci tu, dai, boom. Un ospite che non ci viene a trovare da un po'. Lui è di Regalcioffoli. Sì, lui è di Regalcioffoli, è il presidente. Io ogni volta me lo scordo, cos'è. Dell'associazione, è il presidente dell'associazione Giancarlo Mattello. Giancarlo comunista. Mattello, comunista, sfegatatissimo, ovviamente. Lui ovviamente presenta questa piccola posizione della nostra classifica dei 10, perché appunto è un suo amico Joseph Smietana. L'aveva già incontrato, ne sono sicuro. Possiamo chiederglielo? Sì, comunque. Ma glielo chiediamo. Aspetta, vediamo se c'è qui, se è già qui, insomma. Buonasera veramente a tutti. Fidelio. Grazie. Buonasera intanto. Buonasera, lei non mi ha annunciato, guardi, sono venuto. No, ma oggi Fidelio, non abbiamo così, la possibilità Fidelio, di mettere così. La sua non c'è Antonio. È qui di passaggio lei. Io faccio sempre queste interviste con Antonio, guardi, passavo di qui perché ho scoperto che il mio amico Smietana è qui, si trova nell'etere e quindi ho deciso di venire. Ma Smietana, io me lo ricordo comunque, del collettivo Giancarlo Mattello, collettivo universitario, ci sono le elezioni del collettivo universitario comunista Giancarlo Mattello, mi raccomando. Partecipa. Ma io non faccio parte del collettivo. Lei dovrà farne parte. Ricordiamo Regalcioffoli, sempre comunismo. Stato a parte, Regalcioffoli, ricordiamo, stato poi, a parte. La prossima settimana verrò a trovarvi, ne parleremo di più. Allora, Joseph Smietana fu una sorta di flagello delle calvizie degli anni 70 e dei primi anni 80. Nell'89 e all'età dei 33 anni, come un grande comunista, Gesù di Nazareth. Sì, erano tutti comunisti. Tutti. L'ex scaricatore di Porto fu accusato nello stato dell'Indiana, che è già uno stato fascista, di aver telefonato ad alcune donne ed averle persuase a tagliarsi del tutto i capelli o a trattare le proprie teste con soluzioni caustiche.

ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare. Ready, JT? I can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Now we're in the swing of love, let me show you a few. Let me get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what to call it, a fatty. And oh, shit, so sick. Got a hit and picked up a habit. That's alright, 'cause you're all mine. Oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just my cuz, girl, they wish they had it. A classic, and you're all mine tonight. And as long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few. Get out your seat, ho. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. All saints for my angel. Alexander Wang too. Ass tight denim and some dunks. I show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a nigga tryna cuff you. Tell your mother that I love her, 'cause I love you. Tell your father we go farther as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I show you how to do this, huh? As long as I got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Love, love. Let me show you a few things. Show you a few things about love. Hey. Oh. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. E al telefono come sempre c'è Marco. Ciao Marco, come stai? Ciao grandissimi, tutto bene, voi? Benissimo, benissimo. Marco, questo è il penultimo film brutto per quest'anno, perché poi faremo una pausa fino a settembre, quindi... Allora, la prossima volta dovremo concludere. Devi concludere, guarda, con il film più brutto che esiste, perché deve rimanere così impresso nelle menti dei nostri radioascoltatori che vedranno il film... La bruttezza, la punizione che gli ha trasmesso fino a settembre almeno. Bene, darò il massimo allora. Invece, a parte dirci come stai, che è d'obbligo, ma già hai detto che stai bene, dirci che tempo fa lì. Guarda, molto variabile, abbastanza freddino e sinceramente siamo anche un po', come dire... un po' rotti di quest'acqua e di questo vento. Immagino. E quindi dopo queste domande di rito e il fatto che il tempo è già punitivo, dici cosa vedremo oggi di veramente brutto. Andiamo a conoscere fondamentalmente un genio del film brutto moderno, cioè Uwe Boll. Io già ho davanti la scheda e mi hai mandato e devo ammettere che il film merita molte frustate. Uwe Boll. Il titolo in questione è Sanctimony. Allora, prometto che appunto Uwe Boll è un genere del film brutto, è fondamentalmente il Bruno Mattei cioè, del nuovo millennio, che conosciamo già bene. Bruno Mattei, esatto, è uno che riesce a fare film brutti su qualunque cosa, con qualunque sceneggiatura di due righe, è veramente uno dei nostri, diciamo, registi preferiti. Sanctimony, quindi si chiama il film. Esatto, andiamo a parlare di questo Sanctimony, che è un film brutto che annovera tra gli attori, in particolare il protagonista, il buon Casper Van Dien, sì. Che reduce dal successo di Starship Troopers, ha deciso di disintegrare la propria carriera partecipando a questa insulta pellicola, che tratta appunto della storia di questo Tom Garrick, che è un giovane affarista senza scrupoli, sì. Che praticamente ha già una posizione sociale invidiabile, estremamente benestante, ricchissimo, fidanzata bellissima, le donne cadono ai loro piedi, ha dei soci servili, cioè, a livelli... è la storia di Casper proprio... prima di fare questo film, praticamente. Probabilmente sì, insomma, un po' una metafora. Però ecco, questo personaggio è eroso da un male interiore che lo porta fondamentalmente ad uccidere persone a caso senza nessun motivo ed a vaneggiare continuamente sul non senso della vita, così, perché è scontento. Così, non è dato saperlo perché è scontento. Lui è scontento non e basta. Non si sa perché, però lo è. Insomma, è proprio la faccia che profila la telecamera per tutto il film, insomma, ci fa capire questo suo vuoto interiore, incolmabile. Sì. Vi raccomando appunto dei finisani veramente incredibili del marmoreo Van Dien. Comunque ecco. Ma è possibile che lui realmente si stesse chiedendo come ho fatto a passare da Starship Troopers a questa cagata? E quindi... Esattamente. Beh, esattamente, non è che Starship proprio... Troopers sia stato un... Beh, sai, non è male quel film. Comunque, cioè, anche il romanzo è molto apprezzato, perché la metafora del film è molto bella. Confermi, Marco? Assolutamente, a me è apprezzato molto Starship Troopers proprio, sì, proprio per il suo intento dissacrante, sì, insomma, sì. Questa... No, guarda che è molto bello Starship Troopers. Marco, su questo ci troviamo benissimo, però fammi punire, dai, sono stato cattivo. Praticamente sulle tracce di questo misterioso assassino che uccide a destra e a manca senza nessun motivo ci sono due detective, il detective Reinhardt, sì. Che è più impegnato a curare il suo fisico che a seguire le indagini, e la sua collega la Smith, che praticamente quasi a metà del film riesce a cogliere, diciamo, in flagrante il nostro assassino. Ma invece che fare di tutto per metterlo in prigione, decide di fare di tutto per farsi amare, diciamo, da questo malvagio personaggio. Praticamente si presenta a casa sua alle ore piccole, vestita in maniera discinta, insomma, tenta in tutti i modi, diciamo, di farsi possedere, ben sapendo che ha a che fare con un esaltato mitomane pazzo, ma così è, che insomma, uccide gente a caso. Ma esatto. E questo rende il film ancora più brutto, o è l'unica nota che gli dà un po' di colore, diciamo? No, rende il film ancora più brutto, perché poi il film è un totale delirio di scene in cui vediamo Casper Van Dien che delira per la vita, ammazza il capitato di turno, poi arrivano i poliziotti a interrogarlo, che praticamente lo hanno beccato sul fatto, ma decido di andarsene, così lui, in modo tale lui possa continuare questo vortice di non senso omicida, insomma. Tra l'altro il tutto avviene in un crescendo, perché praticamente il nostro Casper Van Dien riesce addirittura a andare in televisione, diciamo in un talk show, a presentare questa sua visione particolare della vita, e se per certificarla spara in diretta al conduttore in una delle scene più belle che abbia mai visto, veramente. Quindi questa è già la scena clou, possiamo dire. Non proprio, perché secondo me è quella della telefonata? Esatto, la lui è quella fondamentalmente del detective che decidendo in maniera impropria di posizionare la sirena della macchina dentro l'abitacolo invece che fuori, ha una telefonata assolutamente delirante e onirica con la centrale, con questa sirena che copre completamente tutto. Questo proprio per certificare l'intelligenza di questi due investigatori, insomma. E anche degli sceneggiatori, immagino. Ma io leggo, prima di passare poi, se vuoi aggiungere qualcos'altro? No, guarda, sì, ecco, vorrei aggiungere che il finale è veramente catartico, perché praticamente Van Dien riesce a chiudersi dentro una casa, che mi pare non sia nemmeno sua, tra l'altro, facendo convergere lì tutta la polizia e i suoi soci, che lui nel frattempo ha rovinato, praticamente mettendoli sul lastrico con delle operazioni finanziarie completamente folli. Praticamente decide di suicidarsi presentandosi alla sparatoria finale, togliendo i caricatori dalle pistole, no? Questa vuole essere un po' la scena, quella un po' esistenzialista, sì, no? Che ti fa pensare. Esatto. No, perché leggevo che l'artwork del DVD, scrivi nel tuo sito, è in assoluto il più vasto ricettacolo di errori grammaticali della storia. Sì, perché assolutamente. Sembra scritto da un bambino di 3 anni, non so, veramente. Errori grammaticali in inglese o in italiano? No, in italiano. Ah sì? In italiano, sì, assolutamente. Quindi, veramente inaccettabile. Questo è proprio da affittare o da comprare addirittura. È un pezzo da collezione, Sanctimony. Va bene, quindi lo consiglieremo proprio l'acquisto del DVD solo per leggere gli errori grammaticali. E poi leggo che a un certo punto il personaggio di Van Dien piange. Sì, esatto, e la sfida per lo spettatore è capire dove, esatto. Ho capito. In particolare inquadratura, insomma, in cui questo personaggio si lascia andare a un brevissimo pianto. Quindi questo rende ovviamente il film ancora più brutto della... Assolutamente, perché chiaramente poi Van Dien piange con la stessa faccia con cui ride, con cui parla, insomma. Gli hanno messo semplicemente un po' di concefitte nell'occhio. Allora, senti, caro Marco, cosa vuoi consigliarci per conciliare la visione di questo film? Io mi mangerei un bel panino trolli. Panino trolli? Esatto, che è in realtà poi un dolce, una piccola caramella gommosa fatta a forma di hamburger con tanto di confezione stile fast food da offrire, mm-hmm. Che è veramente una gioia per gli occhi e per l'apparato digerente, insomma. Vi lascio immaginare, diciamo, la quantità di coloranti che ingurgiterete mangiando questo piccolo panino. Sto vedendo, chiaramente. Se volete sapere di più, andate su filmbrutti.com nei trash snack e trovate il panino trolli. Se volete vedere questo bellissimo, bruttissimo, scusami Marco, perdona la gaffa, questo bruttissimo film Sanctimony. Va bene Marco, allora noi ti ringraziamo come sempre per questa recensione stupenda. Io sono tentato, grazie, più che dal film, di vedere gli errori grammaticali nella copertina del DVD, ma anche dal film, chiaramente, per vedere come un attore può passare da fare un bel film a una sciofeca. Marco, ci risentiamo la settimana prossima, mi raccomando, con un filmone di quelli che restano nell'area, nella storia della dalla bruttezza cinematografica. Assolutamente. Confidiamo in te. Mi raccomando, Sankt Timoni, scaricatelo, trovatelo, compratelo dove volete. Ci risentiamo mercoledì prossimo con Marco e ci ascoltiamo subito i Green Day con Dirty Rotten Tomatoes. E rientriamo in diretta con Marco, che ci ha deliziato con la sua classifica. Ci sentiamo veramente autopuniti, ma dobbiamo prima di finire questa puntata dobbiamo dare le ultime posizioni della classifica delle 10 cose che deve fare un calvo quando perde i capelli. È diventato ormai inevitabile. Un breve riepilogo con la posizione numero 10: leggere il libro sotto il cappello niente di David Baldwin. Al nono posto, lucidare la capoccia con, come faceva Homer Simpson nei Simpson appunto. Alla posizione numero 8, rinunciare al riporto. E alla 7, dimenticarsi del codino. Alla posizione numero 6, fare i brutti prima e fare i saggi dopo. Alla posizione numero 5, tatuarsi un omino col tagliaerba che vi sfoltisce i capelli nella pelata. Alla posizione numero 4, non presentare Joseph Smietana alla vostra fidanzata o alla vostra moglie. Alla posizione numero 3, sbranatevi dai yard e divoratevi Fast and Furious, e se non vi piacciono fa niente, è ugualmente un dovere a cui ogni pelato deve ottemperare. Alla posizione numero 2 invece dovete rassegnarvi, come smettendola di non accettarvi, e magari ridetene. Sarà questo il sistema per diventare immuni alle frecciate dei detrattori ed esibire un atteggiamento sano ed aperto. D'altronde Dio ha creato un numero limitato di teste perfette, le altre hanno i capelli. E poi non dimenticatemi che c'è sempre la posizione numero 1, ovvero lanciatevi su Cesara Buonamici. Intervistata da Oggi, la conduttrice del TG5 ha dichiarato: il mio uomo ideale ha gli occhi chiari ed è calvo, ho un debole per le pelate, Enrico Mentana per esempio è simpatico, mi fa ridere ma ha troppi capelli. Beh, che cosa aspettate? Adesso abbiamo anche la donna dei nostri sogni, o meglio avete, perché io non sono pelato, ma il nostro regista lo diventerà fra poco, probabilmente fra una settimana. Allora, abbiamo concluso questa amorevole puntata di oggi, amorevolissima. Salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, salutiamo il pubblico da casa, il pubblico che ci ha visto, il Marco, gli ospiti della nostra il pubblico in studio chiaramente, che applaudisce e urla. E niente, ci rivediamo mercoledì prossimo con l'ultima puntata dell'On the Ronda con Antonio, che sarà in studio con noi. E basta, vi lasciamo al prossimo pezzo. Mettiamo il prossimo pezzo, che è il nuovo singolo del Bundabash. E io con questo pezzo saluto i miei amici degli Chimera Sound, amici anche dei Positive Vibration, i nostri colleghi. Certo, che ci saranno domani dalle 21.30 alle 23.30. Sì, se non sbaglio, probabile. Se non sbaglio. Quindi domani mi raccomando, continuate con Radio Panorama, ma restate su Radio Panorama perché la nostra programmazione continua. Ci vediamo ovviamente mercoledì prossimo. Ciao. Ma cos'era? Ci sentiamo siamo di nuovo noi stessi. Fermo. Che io so tutto, va bene, perfetto. Scusate la chiusura finale, ma ci vediamo mercoledì prossimo. Non è un reality show. Let me sing to the reggae sunshine. Bega no non sa ciò sai, c'ho le tempo e basta. Qui tu gano sai, c'ho le tempo e basta. All right. E più matata una vagnona che mi è giusta la giornata. Casa per io c'è boggio senza culla giù imparata. Casa è boccia su brade mie quando sa sciaccata. E non resta stizzata ma gli ocunna le decada. Mi piace in pigiama oppure rubbe già canciata. Mi piace la sensazione dopo una lunga chiacchierata. My sweet little sunshine. E questa qua è la canzone. My sweet reggae sunshine. E quando resti sola è una sola. Lassù ogni tipo di avventura. Puro calo mondo di fronte alla coerenza sen paura. Cigna per natura, bella sì la luna. Punta quanto dura. You make my heart sing na na na na na na na na na na. Baby, I'm a sunshine reggae. Na na na na na na na na na na na. Every time you touch me softly, got me singing like oh oh oh oh oh oh oh oh oh. You got me singing like oh oh oh oh oh oh oh oh. Baby, you're my sunshine. She hear my voice from the stereo. Turn up the radio, listen to the song and take a look outside the window. She said, big boy, oh you look so cool. Won't you sing me another reggae song, slow and good. She are my best friend I ever, nothing changed but the weather. If it rains or snows, we're supposed to be together. A little girl, she says she need me so much. I want to give her some love until she can't get enough. Cause I'm addicted to your eyes. Baby, you're my reggae sun shining bright. She's just a little pretty thing in my life. And that's the reason why, yeah.